E siamo in collegamento con Micia dell'Erma Trigger, dove in realtà questo collegamento sta avvenendo nella tua cucina, Micia. Vabbè, comunque io ti ringrazio per essere qui con noi in questa puntata di Radical Pop. Grazie a voi per essere entrati nella mia cucina. Questa radio un po' estemporanea, sempre di questi tempi Covid, ne parleremo anche più avanti nell'intervista, ma io direi di partire dalle cose basi, le introduzioni, e quindi... Ancora più bello, ancora prima dell'introduzione abbiamo la sigla personalizzata per questa intervista e poi direi sì di partire con la domanda proprio base, che è: chi siete? Quindi chi sono le Erma Trigger e perché questo nome? Allora, Erma Trigger sono Antonella al basso, Linda alla batteria, io voce e chitarra. Ovviamente loro poi quando si ricordano fanno anche i cori. Erma Trigger è venuto fuori, intanto Irma logicamente è, insomma, un richiamo, visto che abbiamo appena passato il 25 aprile a Irma Bandiera, quindi un po' alla dimensione delle donne partigiane, delle donne combattenti e resistenti. Poi unito a Trigger perché... non so, tutto sommato suonare è anche un modo per elaborare la rabbia, le sensazioni, le emozioni che in questo periodo oltretutto insomma sono state anche molto, molto forti, no? E noi abbiamo cominciato a suonare poco prima dell'inizio del lockdown, della pandemia, insomma. Poi chiaramente ci siamo anche dovute fermare nel periodo iniziale, appunto in questo smarrimento generale, e ci siamo rese conto che in realtà insomma era un po' come toglierci l'aria, non poter fare, ma come penso insomma sia successo a tutte le persone, no? Che si sono ritrovate in questa dimensione nuova. E quindi di rivedere un po' le priorità, cioè cosa ti serve per sentirti viva, per sapere che comunque non è tutto il tempo che ti viene sottratto, no? Che è un po' probabilmente la sensazione che in tanti hanno sentito, hanno vissuto. E quindi così, poi suona bene Erma Trigger, no? C'è anche ovviamente la componente eufonica, è importante. Certo, abbiamo iniziato a nominare la pandemia, ma in realtà poi appunto, come dicevi, con anche delle pause di difficoltà a incontrarvi, e però in questa revisione delle priorità che poi ha prodotto invece una produzione musicale che tra poco inizieremo ad ascoltarci e che si può anche ascoltare, lo diciamo per chi ci ascolta, e quindi ti chiederei un po' appunto che cosa... sta uscendo da questo progetto dell'Erma Trigger e dove si può sentirlo al di là delle nostre meravigliose frequenze di Radio Città Fujiko. Grazie. intanto sta uscendo che abbiamo già una decina di pezzi. Poi abbiamo pensato di appunto intanto cominciare con una demo, quindi siamo riuscite tra un escamotage e l'altro siamo riuscite a registrare 4 canzoni in previsione di appunto produrre un album che sì, probabilmente conterrà 10-11 pezzi se riusciamo a farli tutti. La demo la potrete trovare da venerdì 30 su Bandcamp digitando l'indirizzo irmatrigger.bandcamp.com, e chiaramente faremo un lancio perché ci hanno fatto anche un video mentre noi eravamo lì a suonare distratte, e le ragazze del Dagon Studio, che stanno portando avanti da un po' di tempo questo progetto che si chiama Last for Live, in cui appunto i gruppi musicali contattandole possono avere appunto un video delle loro performance in presa diretta attraverso l'associazione musicale Vecchio Son, che salutiamo e ringraziamo. Ricordiamo anche che è un'entità molto importante in questa città, e specialmente per una certa dimensione del fare musica. E quindi appunto attraverso le loro pagine, quindi dal Facebook del Dagon Studio, faremo il lancio venerdì 30 intorno al mezzogiorno. Poi da lì comunque si potrà trovare su YouTube, abbiamo anche una pagina Instagram, stiamo pensando di aprire anche un TikTok, ma non è ancora non è ancora detto. Comunque anche su Instagram basta digitare Irma Trigger e in realtà Instagram è già attivo. Quindi insomma poi tutte le informazioni le potete trovare attraverso questi canali. E il primo pezzo in realtà ce lo ascolteremo proprio adesso, quindi a questo punto direi fresco in anteprima mondiale su Radio Città Fucico, ti chiederei di dirci quale pezzo hai scelto per noi e di presentarcelo un po'. Allora, vi facciamo ascoltare il pezzo che è anche quello del video che uscirà il 30, che si chiama Amai. In realtà è scritto con l'H perché è un po' un gioco di parole tra un passato remoto e una sorta di evocativo, così. Che dire, parla di relazioni, cioè più che di relazioni, di come si cambia attraverso le relazioni. Benissimo, allora questa è Hamai del Irma Trigger, ce l'ascoltiamo, ma restate sintonizzati, tra pochissimo torniamo insieme e continuiamo a parlarne. Questo appunto era Mai dell'Irma Trigger. Tu ci dicevi prima, Micia, che è un pezzo che ha a che fare con le relazioni che non vogliamo. Altro tema, diciamo, è quello del genere, inteso qui nel senso più lato possibile, perché mentre programmavamo queste interviste tu mi dicevi: però a me non piace quando mi chiedono che genere siete. E effettivamente con un altro programma che facciamo sempre su Radio Città Fucico, in Decoradio, noi abbiamo questa pratica di chiedere il genere, in questo caso i pronomi, alle persone che intervistiamo. E niente, quindi ho pensato di riprodurre questa modalità anche per il genere musicale. Quindi piuttosto che chiederti che genere siete, ti chiederò, non so, qual è il genere in cui oggi vi identificate di più, o i generi, quali generi usate? Che siamo the gender, possiamo dirlo. Ma rispetto ai generi musicali, non so, siamo tre teste, abbiamo differenti ascolti, ma in realtà anche un bacino di ispirazione abbastanza simile comunque. Poi sì, probabilmente siamo, diciamo, sugli anni 90, ci piace chiaramente la tradizione delle Riot Girls, anche proprio perché sono state quelle che dicevano: ma noi non ci interessa di essere perfette nel suonare, ma vogliamo dire cose. E quindi, cioè, per noi la musica è anche appunto, cioè, un modo per stare bene, un modo per comunicare, per raccontare. Quindi sicuramente ci ispiriamo a questi bacini. Poi c'è, vabbè, post-punk, grunge, però insomma poi penso che ognuno trovi sempre qualcosa di riferimento, no? Per cui se io ti dico: ah, noi ci ispiriamo a questo, poi se lo ascoltano 10 persone, 10 persone ti dicono che gli ricorda qualcosa di diverso. Per cui, cioè, mi piace anche, ci piace che insomma, che sia un approccio, diciamo, più viscerale, più immediato di chi ci ascolta, ecco. Bellissimo, direi un genere fluido, quindi, insomma. Fluidissime. Poi logicamente in questo mondo ci piace anche ricordarci che preferiamo un genere femminile e femminista, insomma. E allora, a questo punto io ti chiederei anche, visto che ora un po' forse stiamo tornando anche a respirare e si stanno iniziando a riaprire degli spazi anche artistici, musicali, e quindi se oltre a tutti i canali online che in qualche modo abbiamo già menzionato, però se ci sarà anche degli spazi e dei progetti in cui ascoltarvi dal vivo a Bologna e non solo. Speriamo, no? Cioè, la speranza un po' di tutte le persone, penso, ritrovarsi in queste situazioni belle, calde. Guarda, io azzarderei che probabilmente intorno al 13 giugno una data ce l'abbiamo, ed è all'interno di un festival organizzato da dei compagni molto carini che salutiamo, che sono i ragazzi del Dev, insieme alla Collettiva Elettronica, che è un'altra banda di nostre care amiche. E poi vediamo, perché sicuramente una preoccupazione giustificata può essere quella che, sai, è vero, ci sono i programmi estivi, il tempo però è concentrato. I programmi estivi vengono affidati spesso per bando, hai delle date e quindi per forza di cose non riesci a far suonare in realtà tutte le persone che suonano, o comunque ci sono dei livelli, cioè, diciamo, sopra un certo livello riesci a suonare perché sei accreditato. Quando entri nel mondo dell'underground invece è più difficile trovare respiro. Questo purtroppo anche dovuto al fatto che Bologna ha perso numerosi degli spazi in cui la sperimentazione musicale appunto poteva avvenire in modo molto fluido e libero, non mercificato, e quindi bisognerà trovare, insomma, dei modi alternativi, sfruttare sicuramente i momenti all'aperto e poi però ripensare anche a come tornare davvero a poter dare spazio a tante dimensioni, in sicurezza ovviamente. Benissimo, sì, sicuramente la mancanza di spazi è un enorme problema a Bologna, allora anche quando si parla di musica. Certamente, fa parte sempre di una dimensione culturale che ci manca e non riusciamo più ad autogestirci, ecco. Ma io a questo punto direi che ti ringrazio per essere stata con noi, ti chiedo ancora una volta di ricordare comunque i canali su cui trovarvi e niente, speriamo di vederci presto in un sacco di spazi. Speriamo, di sperimentazione. Grazie a voi, grazie a Radio Città Fujiko. Sì, ci trovate su Instagram, basta digitare Irma Trigger, altrimenti dal 30 che faremo il lancio, irmatrigger.bandcamp.com, e poi Dagon Studio, la pagina Facebook. Grazie. Grazie. E ci salutiamo così.